Beam Buster. Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti a tutte le pupe là fuori a Radiolandia. Bene, molto bene. Benvenuti dal vostro Andrea Di Pre. Ciao, mi chiamo Sandra Marchigiano, vengo da New York, sono contenta per farla sfilata. Eccoci, ah. Eccoci. Eccoci qua, tutti quanti. Ciao a tutti belli e brutti. Allora. Ciao. Benvenuti alla seconda puntata di Filmbusters. Io al solito sono Alessandro Di Romolo e con me c'è Alvaro Rissa Intrinseco. Ciao! E Marisa Laurito il Monco. Ciao a tutte le pupe là fuori a Radiolandia. Allora, com'è andata questa settimana, la prima settimana di vita di Filmbusters? Sono già stanco. Il Monco invece? Mi sono dato all'ippica. Sì. Ah. Quando è che litigate di nuovo? Io, boh, mi annoio. Io ho visto che hai aggiunto un sacco di ragazzine su Twitter. Sì, sì, piace, la violenza piace. Piace l'ippica e quindi abbiamo successo. No, vedevo che oggi pomeriggio è stata anche una bella discussione su Twitter. Sono contento che stiamo stimolando questi battibecchi, queste urletti di piacere, insomma. Sì, anche sì, invece... Facebook sembra le elezioni in Egitto, dove la partecipazione popolare è zero. Sì, infatti, non capisco perché non vengono anche su Facebook. Dovete morire! Vogliamo di più come le elezioni in Grecia, dai! Ma lo sapete cosa piace moltissimo ai giovani, oltre a Twitter? Il nuovo trailer di Gatsby, del grande Gatsby. Ah, partiamo così, con Gatsby. Certo. Sì, sì, li prendiamo alla sprovvista. Ok, allora andiamo rapidi, così almeno facciamo una puntata un po' più stringata rispetto alle altre, che non ci abbiamo due giorni per registrare. Allora, abbiamo, come diceva il buon Monco, iniziamo con il trailer del grande Gatsby di Baz Luhrmann, si pronuncia così? Sì. Il trailer è uscito in italiano questa settimana, del film costato circa 130 milioni di dollari, con Leo DiCaprio nel ruolo del protagonista, Carey Mulligan e Tobey Maguire. Ovviamente, come vi ha già anticipato, insomma, come sicuramente saprete se non lo sapete, se siete gli ignoranti, il grande Gatsby è tratto appunto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald. E niente, vabbè, io vi pongo un po' di domande così spazio e così almeno... siamo rapidi, siamo concisi e cerchiamo di dare un parere. Allora, innanzitutto, i produttori hanno già messo le mani avanti, soprattutto Baz Luhrmann, che al New York Times ha affermato che Fitzgerald avrebbe approvato in quanto era un modernista ed è sempre stato influenzato dal cinema. Voi che, vabbè, immagino abbiate letto il romanzo, ma non so se conoscete anche la vita di Fitzgerald. La pensate allo stesso modo? È una di quelle marchette buttate lì per vendere il prodotto? Io penso che se non si è alzato dalla tomba per l'adattamento scritto da Coppola, non si alzerà neanche per questo, quindi è troppo comodo così, il cadavere non può rispondere. Vabbè, fare meglio della versione degli anni 70 è facile, però quella era molto fedele, questa mi sembra molto più esagerata, quindi molto meglio, perché la base letteraria era parecchio noiosa e piatta, quindi... ben venga, sembra il film ideale per Luhrmann e soprattutto per gli attori, che sembra che il Gatsby sia perfetto per DiCaprio, Tobey Maguire è perfetto in quel ruolo scialpo e inutile. Spero solo che Daisy non sia idiota come nel film degli anni 70, per il resto un po' troppa computer grafica sembra, È un po' troppo Luhrmann, è Luhrmann che rifà Luhrmann. Io non sono un grande ammiratore, però sì, è tanto di guadagnato dall'adattamento di cui dicevo prima, che forse è troppo fedele, essendo un romanzo degli anni 20, insomma, un po' di dinamismo non fa male, però boh, sembra il solito Luhrmann che deve colorare tutto, anche quando magari non serve. Boh, vedremo se serve in questo caso. Sì, infatti la prossima domanda era il fatto che la mano di Luhrmann è abbastanza riconoscibile, soprattutto dalle scelte cromatiche. Ho visto un paio di colori sparati, saturatissimi a mille, un po' simili a quelli della seconda parte di Australia. E vabbè, quindi insomma, mi pare di aver capito, non siete grandi estimatori di Luhrmann, quindi un po' tiepida l'attesa nei confronti di questo grande Gatsby. Sì, sì, non è che non sono un estimatore, che ne ho visto uno, boh, visti tutti. Non capito. No, no, capito. Io sono contento, cioè sono un mezzo estimatore di Luhrmann, e questo credo che sia il suo film, è proprio la base, che non puoi cavare fuori sangue da una rapa. Certo, non esageriamo, è uno dei più grandi romanzi della storia. No, dico, come romanzo è ottimo, una trasposizione cinematografica non ha granché senso. Ha senso magari come la sta facendo lui, non vuol dire che sarà un bel film, però ecco, lo capisco. Ma per me lo sta un po' stravolgendo, cioè lo rende... Ma l'hanno già fatto già tre adattamenti, uno famoso, che è famoso proprio per non essere venuto bene perché è troppo fedele, quindi ci sta che lo faccia. A me non piace il suo stile, però diciamo che come operazione commerciale ha senso, secondo me. No, io dico il contrario, sono contento della sua mano, avrei preferito un'altra base, magari stesso periodo, stessa storia simile, ma non troppa fedeltà al romanzo. Poi magari fa proprio così. Fa quello, il periodo che... è quello degli anni 30? 20. Sì. Favolosi anni 20, voilà. Passiamo ad Elysium, che è uscita la news questa settimana, che riguardava la sinossi del prossimo film di Neil Blomkamp, il regista sudafricano, già autore di District 9, che se non sbaglio era stata la sua opera prima, no? Sì, dunque Elysium, c'è poco da dire anche su questo. Venerdì, se non sbaglio, è stata rilasciata questa sinossi. C'erano già state delle foto degli attori, se non sbaglio, di Matt Damon, che è pelato in questo film, a meno che non ho visto male. Il cast è appunto Matt Damon e Jodie Foster più altri attori di cui non ci interessa. Dunque la trama ricorda un po' quella di District 9. Insomma, fantascientifica sempre, c'è questa base spaziale che si chiama Elysium, in cui vivono i terrestri benestanti, mentre il resto della popolazione vive sulla Terra, che evidentemente non è più in buone condizioni. E questi terrestri cercano di, in qualche modo, di migrare su questa base spaziale per vivere in modo più umano. E boh, si sa solo questo, si sa che il personaggio di Matt Damon sarà un po' nel mezzo e probabilmente sarà il classico soldato che deve fare una scelta, se obbedire agli ordini o appoggiare i rivoltosi, immagino io. E quindi ricorda molto District 9, la segregazione, i temi sociali. Boh, speriamo che questa volta faccia un film di fantascienza e non la butti in caciara come ha fatto con il film precedente. Io, avendo letto la sinossi, mi chiedo se già il secondo film non risulti un po' ridondante, perché comunque le tematiche mi sembrano più o meno le stesse. Sì. E nel senso, quindi, diciamo, la ghettizzazione di un popolo rispetto a un altro, il mediatore che sicuramente per qualche motivo poi verrà condizionato dal popolo in cui si infiltra, eccetera, eccetera. Insomma, ho capito che sono sempre rimandi alla storia sudafricana, però insomma qua non vorrei che succedesse la stessa cosa che è successa ad altri autori, come, non lo so, faccio un nome di cui giorni fa rileggevo un parere che avevo espresso a suo tempo, ovvero Alejandro Iñárritu, che già dopo due film ha già detto tutto sulle sue forme. Insomma, non vorrei che già al secondo film Blomkamp non abbia più niente da dire, perché comunque, per quanto riguarda la base, l'idea di base di District 9 non era male. Reinterpretare l'alieno al cinema come un ghettizzato non era male. Poi ovviamente, come hai detto tu, nella seconda parte l'hanno buttata un po' in caciare, è diventato un filmetto d'azione, si è persa un po' tutto quel discorso che si era fatto all'inizio. È stato un po' un peccato, probabile con Elysium, non so, spero che non faccia lo stesso. Ah sì, anche io mi piace, sono un fan della fantascienza, per una volta un vero film di fantascienza non guasterebbe, non ci credo molto, come ho detto, appunto poi è, come dicevi tu, troppo simile, ma chissà. Sì, niente, Blomkamp mi piaceva quando era un difensore arcigno della Danimarca, mi piace ancora adesso da regista. No. sì, boh, District 9 era un buon lavoro, anche questo dalla premessa sembra interessante. Sono ottimista, non vedo l'ora di vedere cosa ne viene fuori. Noi stiamo nel frattempo che tu eri andato sulla Luna, su Elysium. Sì, su Elysium, esatto. Ci auguravamo, insomma, che non buttasse tutto in caciara come la seconda parte di District 9, perché in fondo la base è molto, molto simile. Tu che ne pensi? Ah beh, sì, quello sì. Spero che non faccia gli stessi errori, insomma. Spero che qualcuno gli abbia tirato le orecchie e questa volta abbia scritto qualcosa di meglio in entrambe le parti. Insomma, ottimismo, ottimismo. Passiamo alla prossima news. Ce ne parla il Monco, avanti. Vabbè, rimaniamo in tema di fantascienza e chi ti ricapita fuori? J.J. Abrams, che non sta mai con le mani in mano e ha addirittura tre progetti in futuro. Partiamo da quello più interessante che farà bagnare nelle mutande i fan di Star Trek. Infatti dovrebbe uscire il 17 o il 13, ancora la data non è sicura, ma manca talmente tanto tempo. Maggio 2013, Star Trek 2. Dovrebbe essere il decimo, dodicesimo, ventordicesimo film su Star Trek. Vabbè, il primo era interessante, vedremo questo. Confermati tutti i produttori, lui alla regia, il cast sarà identico. Insomma, voi siete contenti di un altro Star Trek? No, cioè, ho salvato il primo perché l'idea non era male. Però boh, cioè, era la scusa per un reboot, quindi non avrei voluto dei seguiti. Quindi, uscendo i seguiti, non sono contento per niente. Sì, non serve. Ha trovato un modo per riavviare il marchio di successo, però cos'altro c'è da dire, a parte il viaggio nel tempo, di nuovo. Nel terzo film, ma quello è nel terzo film, non nel secondo. No, boh, vabbè, che tra l'altro c'è già stato il viaggio nel tempo nel primo. Appunto, dico, a parte quello, appunto, quindi... per riavviare tutto, no, certo. Gli scrittori creativi sotto mano ne ha, però non io non ne sentivo la necessità, non sono un tracker, o un trekking, non sono pratico. Un trekking. Sì. Ma non lo so, se sarà l'ennesimo film d'attenimento buono, come tutto sommato penso sia stato Star Trek... Non mi dispiacerà, insomma, però non è che sia così, diciamo, hypato per questo progetto, ecco. Non lo so. Lens Flare 2? Lens Flare 2, sì, quello sicuramente ci sarà un abuso di Lens Flare. Da vedere con gli occhiali da sole. No, più che altro spero ci sia un villain di spessore, perché nero di Star Trek era... una roba veramente di poco valore, ecco. Razzista. No, io spero che sia un episodio divertente e in pieno stile Star Trek. Non so, vanno su un pianeta dove la popolazione non pronuncia la lettera U e allora alla fine esce una lite e boom, e ritornano a casa limonando con le ragazze del pianeta, tutto lì alla grande. Ma hai altri progetti di Abrams o è questo l'unico? Guarda che uno che mica sta tutto il giorno a ciondolare per casa, lui sì. e tutta la sua banda di produttori, Orci, Kurtzman e pure Lindelof. Ecco, secondo me il problema è che non c'è dietro un produttore di spessore, perché quando Abrams ha avuto comunque Spielberg in occasione di Super 8, a me è piaciuto molto anche. Però se non c'è qualcuno che, insomma, tira un po' le briglie, se ne va un po' per la tangente, come nel caso di Star Trek, e ancora peggio di Mission Impossible 3, quindi... esatto. Quindi però l'ultimo l'ha prodotto lui e non era male, quindi vedi, deve qual stare... Qual è l'ultimo prodotto? Quale l'ultimo dice? Mission Impossible. Ah beh, però stava la mano di abbastanza pesante di Brad Bird. Sì, no, nel senso lui si è tenuto fuori, vedi? Sì. Quindi finché produce, magari. Sì, ma anche perché, diciamo, ho notato di recente il modo di fare cinema dei vari Abrams, ma anche i vari Lindelof, tutta la crew di Lost, insomma, non sta più piacendo molto. Nel senso che Prometheus è stato molto criticato, soprattutto per la sceneggiatura, per i buchi di sceneggiatura, quindi non lo so, il loro castello di carta sta un po' vacillando. Ma però visto sempre che mettono le mani avanti, sì, la sceneggiatura di Prometheus non mi piace, però sicuramente Lindelof aveva in mente un seguito, quindi mi va bene così. Cioè, va bene tutto ancora, sì, stanno cominciando a demordere un po', non c'è più quell'aura intorno. Sarà che non avendo la serie di Lost che lì arrivava continuamente, hanno perso un po' di entusiasmo. Sì, una critica che avevo sentito migliore sul forum di Games Village era il fatto che non fossero ben tratteggiati i personaggi. Però non si dava la colpa Eh all'Indelof, ma no, scusa, per ma di chi? carità. Se non dello sceneggiatore, di chi è la colpa? Scusa. Ma ancora state su Prometheus, ma basta, Va, va. basta, tanto non lo vedete, basta. Che Allora, tristezza. J.J. Abrams è anche produttore, mica solo regista, e mica solo creatore di Viral e basta. Perché sta producendo The God Particle, la particella di Dio, che sarà un altro film di fantascienza, scritto da Oren Uziel, che dire, il cazzo è? Beh, era lo sceneggiatore di Mortal Kombat Rebirth, Ah, beh, vedi. sì, No, volevo quel aggiungere film. una cosa. Tra le tante cose di cui è autore J.J. Abrams, nessuno glielo riconosce, è autore della Duck Face, l'ha inventata lui, eh. Quella che fanno le ragazzine su Facebook con le labbra sporgenti. Ah. Le vecchie foto di J.J. Abrams, l'ha inventata lui, eh. Uno dei suoi più grandi successi. È per quello che è chiamato genio visionario. Sì, vedi. Sì. Vabbè, Ok. insomma, sto God Particle ancora non si sa. Ah no, sì, si sa parecchio. Insomma, c'è un. No, sono degli scienziati su una nave spaziale, su una base spaziale, e mentre sono sulla base la Terra sparisce. Vabbè, invece l'altro progetto è Wunderkind o Wunderkind, non si sa se è in tedesco, eh sì, in tedesco è Wunder, che sarà diretto da Patrick, no, scritto forse anche diretto da Patrick Hazen, che non ha fatto un cacchio a parte dei corti, comunque è uno alle prime armi, che E chissà. sarà un thriller ambientato agli anni 70, che avrà per protagonisti da una parte un cacciatore di nazisti che lavora per la CIA e uno che lavora per il Mossad. Quindi anche questo sembra un action divertente, insomma, vedremo se viene fuori Ma bene. questo lo dirige o lo produce anche? No, no, Come? anche qui Solo produce, produttore. finora è scritto da Eason e il regista ancora non si sa. Comunque lui no, di sicuro. Beh, buono, fin da produttore finora sono andati bene, chissà. Ma poi mi ricorda un po', ma alla lontana, Alias, di cui lui è creatore, co-creatore, quindi. Si ritorna allo spionaggio. Se ritorna a quello, Ma anche sarei comunque contento. Super 8 dal punto di vista avventura funzionava bene, quindi magari se si butta su quel tipo di film, ma anche Star Trek. E basta che i Sì. finali siano finali e non ci sia solo il viral marketing e basta. Ma a Poi questo se c'è un punto, film dietro va bene. uno che fa film di spionaggio, d'azione così belli, come mai Mission Impossible 3 l'ha ridotto così? Ripensandoci, boh. Tom Cruise. Probabile. Ma Perché c'è c'era sempre un più. Tom. Ma c'era un Tom Cruise in fase calante che è diverso dalla Fenice risorta di È recente, calato di insomma. così, vabbè, sì, insomma, risolto. Sì, vabbè, comunque. Tra Mission Impossible 4, da cui non è andato per così male, un po' un'espressione, però vabbè, sarà il lifting. No, io parlavo del film al di là di queste cose. Vabbè, È come sì. film d'azione, d'avventura, l'ultimo capolavoro, ma prendeva parecchio. Il 3 non aveva proprio mordente. Sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata! Passiamo ai film usciti questo venerdì nelle sale, li abbiamo visti più o meno tutti, anche quelli brutti, e partiamo con Intrinseo che ci parla dei film che hai visto avanti. E vai. Allora, dunque, comincio con il primo film per tutti gli amanti dello sbiancamento anale, Paura 3D nelle sale da venerdì 15, che è stato visto ovviamente solo in 2D, perché insomma, chi te lo fa fare? Già 7,50 euro i Manetti Bros, li dai con l'amaro in bocca, ma 10. Insomma, è il primo horror dei Manetti Bros, che prima ci avevano provato con Mix Comico, Zorro la Vampira, che vogliamo ricordare con vergogna, e niente. Questa paura 3D, che dire di buono? Niente, è un pastrocchio di plagia, copia, in malo modo, scritto da cani, un accenno di trama, ma si potrebbe anche evitare. Comunque un gruppo di ragazzi, rigorosamente romanacci, si introducono nella villa del Marchese Lanzi, interpretato da Peppe Servillo, un grandioso Peppe Servillo, e niente, quindi. Come è prevedibile, scopriranno qualcosa in questa villa e dovranno pagarne le conseguenze. Ed è un po' un horror, insomma, abbastanza classico, che ritira fuori una storia abbastanza riciclata negli horror italiani, questa idea dell'orco in cantina, l'assassino che rapisce i ragazzi e i ragazzini, insomma, solita storia. Però ci infila dentro un po' di torture porn alla francese, quindi ragazze appese alle catene, torture più o meno disgustose, meno che più. E poi un'ultima parte, survival horror, l'ha definita qualcuno, quindi fughe ridicole, quindi questi attori che si acquattano e niente, quindi un pessimo horror, non è neanche uno di quegli horror che ti fanno sganasciare, perché si ride poco, e succede poco, effetti speciali terrificanti, degni di un film degli anni 70, senza Stivaletti non si muove, faceva gli stessi trucchi quando ha iniziato a lavorare e continua a fare gli stessi. Tra l'altro sono anche pochi, perché sono poca violenza, poche immagini forti, c'è una scena ormai conosceranno tutti, una rasatura completa della vagina dell'attrice protagonista, e che insomma il fatto che sia l'argomento più interessante del film la dice lunga, e perché effettivamente non c'è nient'altro da dire, basta, parliamone, visto che anche il Monco l'ha visto, ridiamone insieme, perché non c'è altro da dire. È sbagliato fin dall'inizio questo film, perché vado velocemente sulla scena iniziale, c'è fuori un temporale, la finestra si apre di colpo, causata dal vento, questa apertura è una cosa che si vedeva forse negli anni 20 negli horror, adesso siamo quasi 100 anni dopo, non se ne può più. Inoltre nella stessa scena c'è la voce fuori campo di Dascalica che descrive semplicemente quello che c'è in un accento romanesco imbarazzante, che la levi e migliori già la scena di almeno 4 volte. Però, insomma, questo lo dovrebbero capire loro, mica io che me lo sto guardando. Ci sono degli errori di sceneggiatura imbarazzanti, tipo che nella villa di un marchese sulla sessantina che si diverte con le macchine d'epoca trovano Guitar Hero, versione chitarra e batteria, trovano il volante per la PlayStation, trovano il pallone da calcio, come si dice, la collezione di chitarre senza collezione di chitarre elettroniche. Sì, sì, è un festaiolo questo, sì. O è tipo Michael Jackson che ha riscava gli adolescenti, sì, solo che se vedi l'attore, cioè Peppe Servillo, non so se ce l'hai presente, ti dici, sì, come fa questo intanto ad essere, vabbè, è chiaro comunque, ad essere una figura minacciosa, ma poi cosa ci fai in casa con queste cose? Io mi sarei preoccupato entrando. Soprattutto perché il personaggio è tratteggiato in un modo, cioè è il classico marchese col buco del culo stretto, che non si diverte ma per niente, a parte a fare i raduni con le macchine vecchie. Che cazzo c'ha in casa quelle robe lì? Potresti anche pensare, ma poi lo spiegano perché c'è questa cosa in cantina. No, vi dico già io, no. Sì, sono gli ospiti magari, ma comunque non ha senso, sono lì sul tappeto questi videogame pronti. Sì, vabbè, è solo l'ultima delle incongruenze del film, perché è veramente un concentrato di cliché, di blooper imbarazzanti, sì. Come dicevo anche nella recensione, capita spesso che i protagonisti vengono inquadrati magari fuori da una porta che aspettano di uscire dal nascondiglio, c'è un cambio di scena, passano 10-20 minuti, l'inquadratura torna su di loro e loro sono ancora lì, cioè il tempo passa e i personaggi non... è come se quello che succede fuori campo sia ghiaccio congelato, cioè questa è roba che... non serve fare un corso di sceneggiatura, cioè, capisci da te che mentre succede qualcosa in una stanza gli altri non stanno fermi ad aspettare. E poi le solite cose, il cattivo che zoppica, che viene ferito in modo gravissimo e si rialza, e nonostante questo raggiunge dei ventenni allenatissimi che corrono via, cioè, ma non è vero, è proprio roba che potevi fare negli anni 80 e vergognarti, ma negli anni zero non te lo puoi permettere. Poi c'è una cosa che non avranno notato magari gli spettatori di un certo tipo di cinema, cioè ci sono degli omaggi a certi film. Bava. Sì, c'è un riferimento a Bava, nella lezione universitaria, all'università. Insomma, quando citi Bava e poi fai queste porcate, fai anche un po' ridere. Poi ci sono altri problemi, cioè c'è l'idea della donna appesa in cantina, che non so, sarà la deformazione perché l'ho visto da poco, ma è presa di pari pari, cioè di peso da un film recente di Lucky McKee, The Woman, in cui c'è una donna legata in cantina. Il problema è che se citi un film così, che è grandioso, è uno degli horror migliori degli ultimi anni, anzi della storia probabilmente, e poi non sai svilupparla, non sai renderla tua, cioè è proprio saccheggio spietato. Poi sembra che vogliano fare il verso ai film di Loger, di Bustillo e Maurice, quelli di Martyrs e di All'Intérieur, però è proprio imbarazzante, che, cioè, me l'hanno fatti rimpiangere a me che non li sopporto. Fanno la citazione, l'omaggio, e poi fai queste cose da filmetto amatoriale, da so, su YouTube davvero trovi roba più interessante. Ma c'è anche un'altra bellissima scena, poi questa, se vuoi, la metti nel montaggio o no? Ma vabbè, di. Quando sono in macchina i ragazzi e uno di loro cerca un filtrino per la canna e l'autista, il meccanico, dice: ma non lo so, guarda nel cruscotto di una macchina non sua. E così per caso scoprono che ci sono le chiavi della villa del Marchese. Cioè, vabbè, insomma, ma come l'hai scritto? In più c'è il Marchese che quando va a dare la macchina deve dire, ma proprio gridarlo: io starò fuori per tutto il weekend, ma proprio non torno, arrivo lunedì sera, avete capito? Ho la villa libera. Madonna, abbiamo capito. Sì, di pascalismo a tutti i costi, ma anche una scena in macchina, a parte che non ha senso perché il ragazzo lì sa tutto di tutto, sa dove lui tiene le chiavi, dove l'allarme, non sa che quello ha le chiavi nella Maserati, vabbè. Ma poi anche lui ti dà fuori queste chiavi: oh raga, queste sono le chiavi della villa del Marchese, che è insopportabile perché lo fa per ogni cosa. Questa è Don Perignon, questa è la piscina del Marchese, cioè devono anche descrivere quello che gli sta intorno, perché le battute sono proprio queste. Quello è un assassino. Oh. Ehi, sono i film di Maccio Capatonda. Sì, è vero, indicano e descrivono, cioè come le scimmie, poi quando non sai neanche scappare, perché è difficile da raccontare quel film, perché è bello visivamente, questi attori che si acquattano e devono correre via, ma non sono capaci neanche a correre. Questo è Adriano, Domenico Diedi, ha recitato in Acab, non sembrava un attore così cane, non so se lo ricordate, il protagonista. E qui invece, è come se arrivando a lavorare con i manetti tu perdessi tutto il talento. Non capisco questo però, perché insomma non seguo molto la scena horror. Ma i manetti hanno uno stolo di appassionati abbastanza nutrito, mi sembra aver capito. Sì, e no, producono, hanno fatto un po' di film, quindi sono conosciuti. Ammiratori ne hanno magari nelle riviste, in quelle che devono per forza parlare bene del prodotto italiano perché è italiano. Ma ammiratori, io me ne sto rendendo conto adesso, non ne hanno molti. No, perché ho visto ad esempio anche una rivista come Nocturno, non so se la conoscete. Per forza, lì ci sono anche rapporti tra il recensore, il regista, sai, c'è l'amicizia, c'è... Marchette. Sì, cioè, spesso io frequento anche il forum, cioè viene fuori questa cosa, ma perché ne parlate bene? E lo dicono, ma perché comunque ci sono le ragioni, c'è sempre qualche motivo per parlare bene di queste porcherie. Qui non so, non credo neanche li paghino, perché non sono così, non è che fanno una gran bella vita, sono produttori, ma dubito che possano pagare una recensione. Però c'è questa tendenza nelle riviste di genere a parlare sempre bene, dire sì, ma comunque non è completamente da buttare, sì, ma... Tra l'altro il capo redattore, o comunque uno dei principali redattori di Notturno, ha fatto un articolo prima, e anche su quello, sul numero di questo mese, proprio sono sbattuto in copertina. La copertina di questo mese è proprio la locandina di paura 3D. Quindi c'è proprio la spinta. Sarà che questo è anche prodotto da Medusa, ricordiamolo. Stranamente è arrivato nelle sale, questa è anche un'altra stranezza. Certo. È difficile vedere un film di Manetti Bros nelle sale, quindi in 3D per di più. Non so che distribuzione abbia avuto, però intanto da noi è arrivato. Lo voglio ricordare, l'ho letto oggi. Ho fatto un grosso incasso, 82.000 euro e 300 spicci. Alla faccia. E non faccia. Sai quante sale, uno ha fatto un conto, ha detto quindi 300 euro a sala. Da noi abbiamo già scritto sul forum. Sul... Sì, 219 sale. Gente che non sa manco scrivere sceneggiature pretende di essere produttrice. Vabbè, o uno coi soldi ci fa quello che vuole, però produttore vuol dire anche avere delle conoscenze. E loro hanno dimostrato di non averle, soprattutto... decidendo di produrre i film di Albanesi, basta, poi scoprite la testa Albanesi. Vedendoli fare horror capisci perché non l'hanno fermato mentre li girava, perché uno che sa come si gira un horror vede quella cosa e dice ma fermati, cosa stai facendo, invece no, quindi ora che è uscito la paura 3D che si spiegano un sacco di cose. E passiamo a altro. L'altro film di cui volevo parlarvi è, purtroppo non è stato distribuito altrettanto bene quanto paura 3D, almeno da noi non si è trovato, Le paludi della morte, diretto da Ami, credo, non c'è la Y, Ami Kanan Mann, che è la figlia di Mann, il regista, insomma, di Collateral e di tanti altri film, che è anche produttore in questo caso, ed è basato su una storia vera, ma in realtà, insomma, questa è la premessa e lo scrivono un po' dappertutto, ma non è proprio così. ispirato a fatti realmente accaduti. Praticamente parla di una serie di delitti nella zona intorno a Houston, comunque vicino a questa Texas City, questi killing fields vengono chiamati, sono dei bayou, delle paludi, in cui vengono trovate decine di donne, letteralmente. Nel film parlano di una cinquantina, nella realtà sono 30, 40, che comunque è una cifra considerevole. Quindi dagli anni 60 ad oggi hanno trovato queste donne, corpi di donne abbandonate in quest'area, e non, insomma, sono probabilmente più casi, più omicidi, non per forza legati, comunque mai risolti. E questo agente della DEA, un agente federale, si chiama Don Ferrarone, che tra l'altro ha già collaborato con Mann per IT, è un consulente per tutto quello che riguarda i film polizieschi, quindi comunque ha già lavorato nel cinema, e si è occupato personalmente di questa cosa, mi interessava, e ha scritto lui la sceneggiatura, quindi insomma anche una cosa interessante, un poliziotto, un agente federale che si mette a scrivere un libro, una sceneggiatura, e l'ha molto romanzata. Praticamente ha preso questo sfondo di questi omicidi e ci ha messo in mezzo dei protagonisti che sono ispirati a persone che ha conosciuto ma che non sono legate ai fatti. E sono due, questa coppia di poliziotti, uno interpretato da Sam Worthington e l'altro da Jeffrey Dean Morgan, che collaborano con un'altra agente che è Jessica Chastain, che lavora di nuovo con Worthington dopo, non mi ricordo il titolo italiano, Il Patto, se non sbaglio, no. Ah, porco cane, non mi ricordo. Comunque vabbè. È un ottimo film, perché non mi venga il titolo. Il Debito, sì, che consiglio, un ottimo film di spionaggio. E quindi queste tre figure indagano su una serie di casi, una serie di ritrovamenti di cadaveri che rispecchiano questi veri delitti. E un film che mi ha ricordato molto Un gelido inverno, Winter's Bone, però capovolto, perché qui è una zona molto calda, proprio la zona calda per antonomasia del deserto, ma in una zona particolare, queste paludi molto malsane, che addirittura vivono di leggende, di fantasmi. Addirittura si racconta che gli indiani arrivati lì sono diventati cannibali per le emanazioni di questi gas, e quindi diventa tutto molto torrido, molto caldo, polveroso, ma anche malsano. Insomma, c'è quest'aria della palude, si respira anche nella fotografia, che ha colori caldi ma opacizzati, è sporca, polverosa ma anche umida. Ecco, la fotografia forse è l'aspetto più interessante, e in un certo senso anche la sceneggiatura, per come viene sviluppata, perché non è proprio il classico thriller in cui c'è una caccia al criminale. Sì, c'è un sospetto, ci sono questi agenti, e qui c'è anche forse il cliché, cioè Sam Worthington è quello che ha un po' perso fiducia, divorziato dalla moglie, che è Jessica Chastain, e quindi crede poco nel suo lavoro. E invece Jeffrey Dean Morgan, che per qualche trauma passato sente il dovere morale di risolvere questo crimine, però poi diventa meno tipico, meno banale. Non c'è, come ho detto, una caccia all'assassino, non c'è un assassino, ma c'è, insomma, questo senso di pericolo, questa minaccia che non sembra mai venire fuori. Cioè, davvero riesce a trasmettere l'atmosfera di questi luoghi, che sembrano un inferno in terra. Quindi, insomma, almeno dal punto di vista dell'atmosfera ce lo consiglio. Sì, non è un thriller atipico, interessante, non memorabile, però tecnicamente valido e diverso. Quindi un peccato che non sia uscito al cinema, consigliato, insomma. Sì, ho visto distribuito in circa 71 sale. Sì, quindi io pensavo fosse un problema della nostra zona, invece è proprio poco distribuito. Sì, poco distribuito, sì. E, vabbè, non credo che hai altri film, mi pare di vedere là. Ok, allora passiamo ai miei. Allora, vabbè, il primo film di cui voglio parlarvi è un film che è stato distribuito anche peggio di Texan Killing Fields, ovvero C'era una volta in Anatolia, che è stato distribuito in sole di 12 sale, nonostante abbia vinto l'anno scorso il Grand Prix a Cannes, che ha pari merito con, adesso non ricordo quell'altro film, però insomma ha vinto comunque un premio importante. Il film è diretto da Nuri, non so come, se la pronuncia giusta, Nuri Bilge Ceylan, immagino si legga con la S invece che con la C, non lo so, vabbè. Qualcuno erroneamente l'ha definito un thriller, dico erroneamente perché non è proprio un thriller, o almeno non è un thriller canonico, nel senso che il film inizia con l'immagine di tre amici che parlano seduti a tavola, il sonoro è ovattato, quindi non c'è dato sapere quello di cosa stanno parlando. Però insomma sembra che stiano divertendo. All'inizio non sembra neanche un film che avrà poi risvolti drammatici più avanti. Quindi partono i titoli di testa, subito la telecamera stacca su un campo lungo sulla steppa turca all'imbrunire. I fari di tre macchine spezzano l'oscurità mentre si avvicinano e si fermano presso un fontanile. Quindi insomma già cominciamo a intuire che si tratta di forze dell'ordine perché si riconosce un mezzo militare con la sirena e vediamo scendere un uomo in manette. Dopo scopriremo che è uno dei tre che stavano parlando nella scena iniziale. Viene trascinato fuori dalla macchina e diciamo gli viene chiesto se il posto è quello. Scopriremo più avanti che stanno cercando un cadavere. L'uomo è reo confesso di aver compiuto un omicidio, di aver occultato il cadavere in un luogo non ben precisato nella steppa turca, e niente, quindi insomma, il film rispetta in un certo senso una delle tre unità aristoteliche, che è quella di tempo. Infatti si svolge nell'arco di 15 ore, che vanno appunto dall'imbrunire per tutta la notte fino alla mattina successiva, in cui appunto ci sarà insomma la autopsia del corpo da parte di uno dei protagonisti, che è il medico legale, appunto. Allora, il regista ha una domanda provocatoria di chi gli chiedeva, insomma, se si era reso conto di aver fatto passare due passa ore estenuanti al pubblico. Ha risposto che lui voleva che gli spettatori provassero le stesse sensazioni dei personaggi. Ecco, innanzitutto io non concordo con la domanda provocatoria, nel senso che, ok, effettivamente il film è estenuante, questa ricerca ossessiva di questo luogo del delitto nella notte così oscura, insomma, dove l'oscurità è spezzata soltanto dalle luci dei fari delle macchine, è effettivamente estenuante, anche perché il film è abbastanza ridondante, di luogo in luogo i movimenti di camera sono abbastanza simili. Però quello che rimane alla fine del film, se si resiste, è veramente un ottimo film. Innanzitutto perché è un film di personaggi. Il percorso di evoluzione che effettuano all'interno durante il film parte appunto da dialoghi piuttosto futili. Ce n'è uno abbastanza tarantiniano sullo yogurt, insomma, e da una sorta di diffidenza reciproca che man mano andando nel film si scioglie e i personaggi si aprono l'uno con l'altro. Ed emergono i due protagonisti, che sono il procuratore e il medico legale. Dai loro dialoghi emerge anche un po' una sottotrama che sarà poi il leitmotiv della seconda parte del film, che quindi porterà il film fino alla conclusione. Il cinema di Celan è fatto di inquadrature statiche, di sguardi e di silenzi, quindi erano necessarie delle performance eccezionali da parte degli attori. Secondo me c'è la prova dell'attore che interpreta il procuratore, che si chiama Tanner Birsell, che è veramente eccezionale. Clark Gable. Sì, esatto, che effettivamente ha una certa somiglianza con Clark Gable, molto alla larga, insomma, però vabbè. Effettivamente è un grande attore, c'è la scena in cui stila il rapporto del ritrovamento del cadavere, che è veramente dà veramente una grande prova attoriale, ecco. Quindi tu l'hai visto comunque. Sì. Ok. Dal punto di vista tecnico, secondo me, almeno nelle parti iniziali, quei campi lunghi sulla steppa turca mi hanno un po' ricordato le battute iniziali di Non è un paese per vecchi, con i territori selvaggi di confine del Texas. E con il film dei Coen condivide anche la scelta di non utilizzare una colonna sonora. Poi, volendo parafrasare insomma il titolo Non è un paese per vecchi, c'era una volta in Anatolia, è anche uno spaccato di vita turca, e potremmo definirlo Non è un paese per donne, perché insomma le donne escono sfruttate, vittime delle scandescenze degli uomini, dei gesti impulsivi degli uomini, ma soprattutto incomprese. Non dico insomma cosa succede poi nella storia, nella trama, però appare evidente il messaggio che anche i significati dei loro gesti più estremi, come può essere un suicidio, nonostante appaia alla palissiana, non viene compreso dagli uomini, che non hanno orecchie per ascoltare, insomma. Non so se tu, Monco, vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, io non so perché mi ha ricordato un po' il segreto dei suoi occhi. Sembra che non abbiano nulla in comune, però un po' come stile, come produzione, mi sono sembrati simili. Sì, in effetti è interessante come l'argomento principale è quello che fa da punto di interesse, appunto, di tutta la storia, sia questo ritrovamento del cadavere, che poi non è per niente non è quello di cui vuole parlare il film, ma parla di tutt'altro. E lo spaccato che viene fuori dalla Turchia è, è un po' bruttino, insomma, l'impreparazione, l'arretramento culturale e tecnologico. Più che altro della provincia turca, perché qua stiamo parlando di una provincia abbastanza remota, appunto l'Anatolia, che non ha mai... Sì, infatti il procuratore che tira fuori il laptop o il cellulare sembrano... che in un film dell'Ottocento tiri fuori un cellulare di colpo e dici ma è un errore, invece no, qui è proprio così. Sì. E poi sì, attori meravigliosi, il procuratore ma anche il dottore mi è piaciuto molto, e una regia stancante, sì, dura parecchio, e capisco quello che diceva il regista, ho provato le stesse sensazioni di loro, però insomma è molto bello da vedere, i paesaggi, la macchina da presa così ferma per molto tempo, bello, mi è piaciuto, anche se difficilino da reggere per tutta la durata. Sì, sì. Tu intrinseco non l'hai visto? No, ce l'ho, non ho ancora fatto in tempo. Te lo consigliamo, non dire ce l'ho, se no finisce il gabbio. Che sono un proiezionista, e quindi... Ah, la grande. Dicevamo, distribuito in sole 12 sale, sarà un po' difficile reperirlo. Sì. Sembra un po' ipocrita, non se ne può parlare, ma purtroppo uno, volendo vedere certi film, o espatria. Sì, se ne vorrebbe parlare in una puntata successiva, certo. Però effettivamente per certi film la distribuzione è veramente un invito ad andare su Google e cercare il torrent relativo. Insomma. Ma poi ripetiamo, è uscito Paura 3D in certe sale, questo no, sì. Ricordiamo. Sì, appunto. E vabbè, passiamo al prossimo. L'altro film che porto è Biancaneve e il cacciatore, dell'esordiente Rupert Sanders, prodotto da Joe Roth, che ha prodotto anche Alice in Wonderland, e quindi sta cercando in un certo senso di instaurare un trend di favole rielaborate secondo canoni dark. Con Biancaneve diciamo che non c'è riuscito quasi per niente, non c'è riuscito nemmeno con Alice, però Biancaneve anche dal punto di vista degli incassi sta un po' deludendo, è costato circa 170 milioni, ma tra domestico e mercato straniero sta circa 250, non dovrebbe nemmeno tornare nell'investimento. Detto questo, ma non mi è piaciuto per niente, insomma, è un film abbastanza raffazzonato. Come ho scritto nella recensione, prende le distanze dal classico d'animazione della Disney, però cade in un cliché che secondo me è anche più pericoloso, perché il modello femminile che viene rappresentato non è quello che avevano promesso, però non è un'eroina, ecco, hanno giocato molto su queste immagini di promozione di Kristen Stewart in armatura, però effettivamente Biancaneve in armatura si vede solo nelle battute finali, veramente l'ultimo quarto d'ora, per il resto è la solita fanciulla, eh? Come Alice, allora. Sì, esattamente come Alice, però guarda, Alice aveva già una personalità ben delineata, perché comunque aveva già qualche linea di dialogo in più. Qua Biancaneve veramente sospira dall'inizio alla fine, sospira soltanto, e come ho scritto nella recensione, quello che secondo me è più avvilente è che il messaggio di fondo è che non è una bellezza d'animo a vincere la bellezza estetica della strega, come poteva essere nella favola originale, ma anche nel film di Disney. È semplicemente una bellezza estetica più giovane, perché comunque la bontà d'animo di Biancaneve non c'è dato conoscerla, proprio per il fatto che ha poche linee di dialogo, è un personaggio poco approfondito. Sì, c'è questa idea dell'amore impossibile con il cacciatore, però innanzitutto era un'idea suggestiva, però se il cacciatore l'avesse interpretato Pannofino potevo capirla, sarebbe stata una bella idea, ma lo interpreta Clint Hemsworth, che è comunque il tizio che sta facendo vendere The Avengers anche alle ragazzine perché è Thor e perché è bello. Insomma, è comunque un amore governato da pulsioni fisiche, come dicevo nell'articolo, e avrei preferito comunque un tipo di amore diverso. Sarebbe stato un azzardo, sarebbe stato comunque coraggioso. È evidente che questa produzione di coraggio ne ha veramente poco, insomma. Paragone con Elis, chi vince? Allora, Alice era un film orrendo, però c'era comunque Burton dietro la macchina da presa. Comunque sì, proprio perché c'è Burton ti aspetti qualcosa di diverso, invece piuttosto che un film orribile, insomma. Però il gusto di Burton per il dettaglio e comunque c'è Johnny Depp che, sebbene rifaccia sempre se stesso, alla fine è Johnny Depp. Secondo me vince Alice proprio perché Biancaneve è molto anonimo, veramente tanto tanto anonimo. E non solo è anonimo, ma quei guizzi che ha, il merito non va riconosciuto a Sanders, ma a Peter Jackson, perché è veramente una scopiazzatura per certi versi del Signore degli Anelli, almeno dal punto di vista tecnico. Ma mi pare di capire, cioè, da come ne parli, sembra quasi che ti aspettassi comunque qualcosa, non dico di grandioso, ma. Ma io ho fatto un po', diciamo, non orecchie, ma occhi da mercante, nel senso che non dato trailer, semplicemente ho cercato di guardarlo, diciamo, tenendomi estraneo da tutto quello che c'era intorno, ma ho letto giusto qualche intervista, che è poi quella che ho utilizzato per fare la recensione, a cui mi sono appoggiato, che parlava appunto di promesse di una rimasticatura anche originale, ma che poi il punto è questo: è che forse mi rendo conto di essere una voce fuori dal coro, perché comunque è piaciuto a molta gente e le prime recensioni che stanno uscendo in Italia sono comunque lusinghiere, quindi non lo so, sarà sì, ok, tu mi dici che ti aspettavi diverso, però effettivamente Addirittura a c'è molta gente è qualche. piaciuto. Poi è strano perché, se non sbaglio, fino a poco fa, cioè poco fa, non è uscito un'altra rivisitazione, no? Quella Sì, di Tarzan Singh. Che sì, esatto. lì ho letto anche qualcosa di buono, però c'era, se non sbaglio, una visione ironica della cosa, era un po' più alleggerito. Magari, ecco, anche il fatto di uscire così a breve distanza è strano, no? Sì, Sì, sono boh, non visioni lo so. diverse agli antipodi, però è strano, cioè due film su Biancaneve non hanno. Sì, non se ne sentiva il Sì, bisogno per ecco, questo forza. boh, insomma, non ho visto, non mi interessava, ma insomma, vedendo gli attori, vedendo l'immagine, senza guardare trailer, ma insomma, mi No, aspettavo il certo, classico sì. film dove bisogna essere belli, tutto è bello, come dicevi tu, la Sì. bellezza esteriore, insomma, sono tutta questa filiazione delle favole, oltre ad Alice, mi viene in mente La Bella e la Bestia, rifatto, in quella versione orribile, che adesso gira su Sky, Beastly. E poi Cappuccetto Rosso, queste attrici sempre le stesse, sempre gli stessi visi, tutto bello, tutto, anche quando vogliono fare la visione dark, poi viene fuori tutt'altro. Sì, il punto è che non lo so, a Hollywood hanno un'idea un po' distorta di cosa sia dark. Cioè, Non so, forse, se questo è il loro dark, ma anche gli insomma. spettatori, perché molti ne parlano appunto come se fossero film, insomma, avessero questa impostazione dark, ma boh. La particolarità è che agli spettatori non sembra piaciuto per così tanto, perché come dicevo, gli incassi non stanno andando benissimo, ma anche su Rotten Tomatoes. Se voi sapete, c'è una distinzione tra top critic e critiche, diciamo, della gente come noi, di chi ha un blog oppure scrive su giornali minori. Ecco, la percentuale totale, quindi che comprende anche gli autori di blog, è del 48%, quindi negativa. Mentre invece top critic l'hanno quasi promosso a pieni voti, perché ha un 65% di recensioni positive. Quindi non lo so come sta succedendo anche in Italia, perché non lo so, vedo veramente esaltate cose. C'era ad esempio una recensione sui blog di Best Movie, che ormai sono le mie letture preferite, che parlava di soluzioni visive particolarmente originali. Ma, cioè, io ho visto rimasticature da film, anche ad esempio da Mononoke, cioè il dio della foresta che è rappresentato come un cervo, che però, insomma, niente di particolarmente originale, ecco. Non so, c'è più niente da dire su questo. No, no, pietà. Andiamo avanti con i film del Monco che sono interessanti. Ecco, facciamoci una risata. Ben tre commedie mi sono sparato, col mio istinto suicida mi sono un po' placato. No, non è vero, perché erano tutte brutte, quindi non sono più depresso di prima. Parto con Il dittatore. Ah, dai, una è bella però, perché tutte brutte. Così c'è il colpo di scena. Parto col dittatore perché l'ho visto anche Intrinseco, quindi possiamo insultarlo entrambi. Niente. Capitolo terzo della filmografia di Sacha Baron Cohen, ormai attore affermato, che ogni, non so, un paio d'anni deve uscire con un suo personaggino. Questa volta vuole fare Il dittatore in un periodo in cui ai dittatori, insomma, non è che vada benissimo. È il classico film di Sacha Baron Cohen, cioè una commedia un po' infantile, un po' stupidina, con lo straniero molto arretrato culturalmente, con i problemi di lingua che se ne va in America, è molto misogino, insomma sono le stesse battute, questa volta il personaggio è un po' diverso, ma siamo lì. Bisogna dire che c'è una crescita almeno, in confronto a Boris e Bruno. E a Bruno. Boris è un'altra cosa. Appunto. Visto che questa volta un po' di storia c'è, non è solo gag o cazzatine, però il livello è davvero sempre infimo. Intrinseco, che ne pensa? È uguale, l'unico appunto passo avanti è che almeno per una volta si è risparmiato i documentari, perché insomma era trito e ritriso, poi non avrebbe avuto senso, è l'unica cosa buona davvero. Poi sì, sono solita commedia squallida, volgare, sì, qualche risatina, però non vale la candela, non è mai, non lo so, mi ricordo sempre un bel ricordo di Borat, ma appunto visto in compagnia al cinema, però ha stancato presto, preferivo quando faceva televisione, funzionava meglio, era più immediato, più diretto, il cinema è come tutti i comici che devono fare per forza cinema e poi si rovinano. Ma poi insomma dal trailer e da tutte le trovate gag che aveva fatto nei vari talk show sembrava esserci più spazio alla sua, alle provocazioni da dittatore, invece era proprio pubblicità. Sì, cioè, il film, Oscar, le foto con la Canalis, evidentemente erano, o ne sono state tagliate o è solo marketing. Peccato, perché magari potevano togliere qualche momento morto e usarle. E vabbè, tra due anni ne farà un altro, immaginiamo. Invece di lavorare con i vari Scorsese in company, no, facciamo questi filmacci. Deve fare il film su... Ah, quello dei Queen, sì. Sì. Vabbè, quello... Diventerà una commedia anche quella. Sì. Documentari sulla resurrezione di Freddie Mercury. Vabbè, ai baffi è un omosessuale, sarà l'unione tra il dittatore e Bruno. Vabbè, sì. Abbiamo già capito. Altra commedia è 21 Jump Street, la versione cinematografica della ultra famosa, io non la conoscevo, serie TV anni 80 con protagonista Johnny Depp. Questa volta i protagonisti sono Jonah Hill, odiato immensamente anche più di Monicelli quando era vivo, questi la capiscono in pochi, e l'altro è Tatum, che non è il pugile dei Simpson, ma è quel pezzo di gnocco, ammettiamolo, che in ogni film romantico lui c'è e si fa sempre la più bella, che molto spesso è Rachel McAdams, te postino. Niente, questi due protagonisti sono la classica commedia sbirro buddy buddy in cui... c'è quello brutto ma divertente, l'altro invece perfettino e atletico ma che ha bisogno del suo compare. Si infiltrano in un liceo perché loro sono ancora di aspetto molto giovanile e devono scoprire chi vende la droga. Beh, commedia divertente, c'è forse dietro la mano di... no, non c'è ufficialmente, ma almeno un po' di ispirazione l'avranno avuta dai vari McKay e Will Ferrell. C'è qualche attore macchietta, feticcio di questi due registi. Insomma, una commedia divertente. C'è anche un bel cameo nel finale, che non vi svelo, ma insomma, questa era godibile e aveva un buon ritmo e belle battute. Sì, anche a me è piaciuta parecchio. L'hai vista? Sì, l'ho vista. Sì, no, niente, alla fine la penso come te, è una commedia che funziona abbastanza bene, a parte i protagonisti, il resto dei personaggi sono tutte macchiette, però macchiette ben fatte, insomma, che devono essere macchiette e lo fanno in maniera piuttosto egregia, come ad esempio Ice Cube che fa il capo duro, incazzato, insomma, sì, non mi è dispiaciuto, ma divertito, trovo è che... ritmato. Sì, ben ritrovato, ma soprattutto trovo che i due protagonisti godano di una buona alchimia, insomma, si sono trovati abbastanza bene e si vede che comunque sono divertiti a girare un film del genere, quindi... Loro sono anche produttori esecutivi Sì. e Jonah Hill ha Jonah Hill. partecipato anche alla stesura del soggetto, mi pare di aver Sì, visto esatto. comunque. Quindi lo sentivano particolarmente. E complimenti a Tatum che insomma, ha dimostrato di essere un attore che sa anche fare qualche espressione facciale, non è solo una bella faccia, insomma. Ah, ma in un ruolo comico ha dato prova di essere bravo, un po' come gli attori di film d'azione degli anni 80, non lo so, mi viene in mente Schwarzi, no? Sì. Comunque, ne parlammo anche in una puntata di Cineplegici, del fatto che questi attori comunque erano capaci anche di interpretare ruoli meno seri, ecco, di prendersi meno sul serio, insomma. E niente, che altro volevo dire? Sì, dicevi ben ritmato, comunque Phil Lord e Chris Miller vengono dall'animazione perché hanno girato Piovono Polpette, che non so se l'avete visto, sì. Sì, brutto ricordo. Sì. Anch'io, terribile. E niente, una cosa che ho visto oggi nella video recensione di Bad Taste, a cui ha partecipato Francesco Alò, che ringraziamo, ci ha fatto un po' di pubblicità oggi sull'articolo dei Blues Brothers. Si diceva appunto che questi registi, cioè soprattutto Miller e Phil Lord, abbiano comunque una padronanza del ritmo che deriva dal fatto che vengono dall'animazione e che quindi girare un film d'animazione necessita di una pianificazione certosina, perché comunque non puoi rifare una scena e per aspettare come risultato devi aspettare il rendering, se parliamo soprattutto del cinema in CGI, e questa padronanza del ritmo la portano anche su schermo. Io qui l'ho vista in 21 Jump Street. Personalmente non sono d'accordo, ad esempio, con loro parlavano anche di Adamson e di Brad Bird, sì, Adamson con John Carter, insomma, ho visto di recente John Carter e mi è sembrato un film che, soprattutto dal punto di vista del ritmo, ha Sì, anch'io ho visto parecchie proprio. ombre. Sì, un po' latita il ritmo, ecco. Forse è l'unico problema, visto. Vabbè, non capisco comunque questo flop. Eh beh, perché non è stato venduto bene, se ne Sì, parlò all'epoca del fatto che un non avevano po'. fatto proprio campagna Ho marketing. capito, ma non è il primo caso. Davvero una reazione. Boh, non è Sì. così traumatico come film. È tutto sommato carino, però. Boh, basta un po' di pubblicità sbagliata e un progetto così muore. Prego, prego. Concludo con l'ultima. Strafaccio proprio. La commedia francese Benvenuto a bordo, che ho visto così en passant. Commediola estiva, sciocchina, però rimane sempre superiore a un cinepanettone, in quanto non è volgare né deve usare il nudo né battute a sfondo sessuale, insomma. È sciocchina, ma un'occhiatina, ma proprio quando siete lì che non state in pennica postprandiale. Dateci un'occhiata, basta, prende in giro un po' Schettino, ma con 5 mesi di anticipo, perché l'hanno girato prima loro, però insomma, un'occhiatina, non vale la pena delle altre commedie francesi, ma qualche momento divertente ce l'ha, fine. Consigli, consigli, consigli, consigli, consigli. Cioè, sì, ho visto che sul forum di Games Village, nel nostro topic d'Asia, diceva che avrebbe voluto sentire il nostro parere su The Ride Redemption. E non so se voi l'avete sentito parlare, Sì, io però non pensavo di l'ho ancora visto. rivederlo. Pensavo di rivederlo di recente anch'io, casomai in una prossima puntata ne parleremo. Dai, Visto, dai. forse già nella prossima, perché mi sembra che a parte un paio di uscite non c'è molto al Dici? Io cinema, insomma. non ho capito cosa, però. Ride Ride the Redemption. Redemption. Ah, Oh no, The Ride Sì, Redemption, dai. non Ride the Redemption. E vabbè, dai, procediamo con i consigli. Consiglia tu, Intrinseo, che ci Allora, consigli? io vi volevo consigliare un paio di cose. Intanto un film svizzero del 2009, quindi fantascienza, si intitola Cargo. Non vi dico molto, non è niente di trascendentale, però è un film svizzero, già questo merita per questo merita una visione, un soggetto interessante, un po' lento, forse troppo, dura, se non sbaglio, un paio d'ore, però non è da buttare, soprattutto perché si vede che il budget è contenuto, ma c'è buona volontà. Cargo del 2009, poi. Un libro, visto che l'altra volta si è parlato anche di libri, è uscito da un bel po' in America, ma adesso stranamente c'è anche in Italia, Monsters in the Movies, che è curioso, è un libro di John Landis, è una cosa che ha fatto a tempo perso, e ha raccolto la storia dei mostri nel cinema, quindi tutte le creature mostruose del cinema, tramite foto e suoi commenti, una cosa di 300 pagine, molte immagini, e con interviste anche a Carpenter, Cronenberg e non ricordo, un altro regista. Comunque, tema mostri, una cosa che gli è molto cara, soprattutto l'uomo lupo, può essere interessante. Qual è l'editore? DK Publishing, non so per cosa stia, comunque si trova, ho visto Amazon, IBS, prezzo non quello basso, ma è sui 30 euro, però sono molte fotografie, quindi credo sia inevitabile. E poi devo ricordare una cosa, se siete riusciti o se riuscirete, il 15 giugno è tornato al cinema di nuovo Diaz, non so se è voluto, ma in questi giorni c'era il processo, quindi può darsi che non sia una coincidenza. Comunque l'hanno rimesso nella letterale, probabilmente poche anche questa volta, se riuscite. Perché c'è la sentenza, sì, stata la sentenza, no, non c'è stata, è stata rimandata al 5 luglio. Vabbè, però doveva esserci. Sì, non so se è voluto, penso di sì. Sarà una cosa per muovere un po' la morale ai giudici. Evidentemente non ha funzionato, perché dobbiamo aspettare fino al 5 luglio per sapere cosa hanno deciso. Comunque, niente, andate a vederlo. Innanzitutto, questa sera, dopo la partita su Rai 2, c'è Stracult, che, vabbè, prendetemi in giro, programmaccio. Però parla del cinema italiano e del cinema di genere magari in maniera cafona, però a volte lo fa molto approfonditamente, quindi un'occhiata gli assi da sempre, così in allegria. E poi, vabbè, visto che rimaniamo sulla commedia francese, OSS 117, una bilogia del regista adesso famoso perché ha vinto l'Oscar, Michel Hazanavicius, con protagonista il mitico Jean Dujardin. Sono due film, il primo è Le Cair Nid d'Espion, non massacrate il mio francese, il secondo è Rione Repon Plus, sono due parodie del genere di spionaggio di James Bond, sono demenziali quasi, ma hanno una regia spettacolare. Hazanavicius è un genio, è quasi tarantiniano nell'omaggiare i generi, sia con The Artist che con questi due. E Desjardins è favoloso, e fatevi due risate, va? E niente, io vi consiglio solamente una cosa, un piccolo consiglietto così. È uscito finalmente il numero di aprile e maggio di Duellanti, l'edicole. È una rivista che, a mio parere, è molto valida, forse l'unica valida nel panorama delle riviste di cinema italiano. E se potete, sostenetela. Il prezzo non è effettivamente alla portata delle tasche di tutti, perché insomma 6 euro per una rivista effettivamente è un prezzo abbastanza elevato, però sono un po' in difficoltà anche dal punto di vista economico, però i contenuti sono sempre validi, secondo me. Dategli una, se gli potete dare una possibilità, dategliela, e forza Duellanti, non fatela sparire dalle edicole, perché sarebbe un vero peccato. Non possiamo andare avanti a Best Movie, cioè, raga, abbiamo la sviata, o facciamo la rivista di Filmbusters, o se no dobbiamo sostenere queste riviste un Dovranno po'... Dovranno cominciare a fare il formato mini e lasciarlo nei cinema anche loro. Sì. Infatti sarebbe una soluzione, però... Adesso non credo che riuscirebbe. C'è un circuito, il circuito cinema, che appunto si occupa di film de sé, casomai lì troverebbero la loro, come dire, il loro ambiente naturale, però effettivamente nel multisale una rivista come Duellanti sarebbe un po'... difficile, insomma, da piazzare, sì. Beh, comunque 6 euro, dai, il prezzo, visto il volume anche delle riviste di cinema, è giusto, è appropriato. Sì, è tanto, ma insomma i contenuti ci sono. Sì, ok. E vabbè, niente, abbiamo finito qua. Ricordiamo un po' le uscite della prossima settimana. Dovrebbe uscire forse il primo film in cui... Adrien Brody fa una scelta di sceneggiatura valida, visto che comunque adesso si è sempre scelto ruoli pessimi, ovvero Detachment, il distacco. Gagliardo. Che ho sentito parlare abbastanza bene, insomma. Lo strillo di My Movies dice: un film che coglie le falle del sistema di istruzione americano con lucido pessimismo e malinconica poesia. Sicuramente ne parleremo. E niente, che altro esce? Ah, vabbè, ovviamente torna in cinema questo mercoledì e giovedì Blues Brothers, quindi andatelo a vedere perché insomma leggete anche il nostro articolo, del Monco che ha ricevuto anche parecchi elogi. E niente, che altro esce? Quell'orrore di Chernobyl Diaries, che chissà, magari sarà Ma meno brutto del sono previsto. io sono ottimista. Sì, il trailer che ha riciclato delle immagini di Stalker, il videogioco, ricordiamolo. Alla grande, Nascoste in ah, mezzo ai fotogrammi. esce anche Rock of Ages, quello dove Tom Cruise fa il cantante ed è stato elogiato tantissimo, quindi insomma sembra un po' una, però ne parlano Però... bene. Oddio, c'è cioè chi ci è andato giù pesante, l'ha definito il glitter rock, insomma. Madonna, Ah, non vabbè, c'è lo insulto comprendo. peggiore. Sì, però vabbè, dai, C'è anche una non lo commedia posso difendere. francese, Chef. No. Chef di Daniel Cohen con Jean Reno e Michelle Hume, non lo so se si Non ho pronuncia idea. così, e Raffaella Gugué, però vabbè, se c'è Raffaella Gugué, merita. No, siete dei bastardi, dovete farmi vedere tutte le commedie francesi. C'è anche un altro film francese, ma non è una commedia, è un amore di gioventù. No, non lo guardo quello. Però è tedesco-francese, no, no, no, noi i No, tedeschi no. stiamo alla larga. Bastardi. Vabbè, dai. Io ricordo sempre come hanno tradotto il titolo di Jaws, lo squalo, ovvero Le Dent sur le Mer. Con questo concludiamo. Odiate i francesi, Forza Italia stasera, dai, ce la facciamo. No, vabbè, francesi in genere, poi vabbè, i film francesi sono bellissimi, Va però bene. vanno odiati, vanno odiati. Con questo vi salutiamo, seguiteci su Twitter, scriveteci mail, mandateci commenti su Facebook, sui forum, basta che vi fate sentire, pure i commenti sul blog sono ben Anche i accetti. commenti anonimi. Anche soprattutto i commenti anonimi, Soprattutto. ci facciamo grasse risate e saluto a tutti. Ciao Vade. Ciao, ciao. Sandra Marchigiano, vengo da New York, sono contenta per far sta sfilata. Woo!